E così siamo arrivati a una cifra tonda, 10 anni di stagione Agorà, che praticamente ha accompagnato la rubrica in scena del Breakfast Club dalla sua nascita. Questi 10 anni li evidenziamo, oltre che con un cartellone importante per un teatro che vede la nostra pianura da protagonista e non solo. Siamo con Alessandro Amato, che innanzitutto saluto e ringrazio per questa disponibilità. Buongiorno. Buongiorno a te, William, e agli ascoltatori. Grazie. Ti è piaciuto questo incipit? Ottimo, ottimo. Compleanno, quelli tondi sono da festeggiare doppio, con l'impegno che ci vuole per un progetto così articolato. Arrivare alla 10ª edizione non era scontato e siamo contentissimi di esserci riusciti. E quali sono i percorsi, se possiamo definire anche i fili rossi di stagione? Quest'anno, visto un pochino la situazione, abbiamo deciso di dare un sottotitolo alla stagione, che è Custodire Umanità, perché il teatro è probabilmente il linguaggio di per sé politico, perché prevede dei corpi in scena. E quindi abbiamo un po' deciso di rivendicare il concetto di umanità sia come nome collettivo, che l'umanità rappresenta, al di là delle etnie, dei luoghi, dell'età, della distanza, ma soprattutto anche delle epoche, perché umanità è il passato, è il presente, è il futuro, e umanità è anche una qualità morale che pensiamo sia l'argomento di cui è necessario parlare. Ci piaceva far riflettere un po' su questo doppio significato, che da una parte riguarda le persone e dall'altra riguarda una qualità. Certo, direi da sottolineare è indispensabile, soprattutto in questo periodo. Come diceva Vittorio Arrigoni, restiamo umani, no? E questo è uno dei modi per intraprendere questo 10º anno, tra l'altro condivisibile assolutamente. Quando e come si comincia, Alessandro? Cominciamo questo sabato con un'anteprima, con Yaya Forte e Diana Teiera, con un omaggio a Patrizia Cavalli, quindi partiamo con la poesia. Poi ci ritroviamo dal 2 novembre con, come solito, di Agorà, calendario fitto. Partiremo con Odissea Minore, che è un racconto sulla rotta balcanica vista dal punto dei bambini, quindi che è proprio un'odissea, anni e anni di viaggio per provare a raggiungere un luogo di pace. Poi avremo Allarme di Panzetti Ticconi, spettacolo di danza che arriva per la prima volta in zona, e anche in questo caso si lega un pochino al sottotema della stagione, perché è una coreografia che nasce appunto da gesti militari, se danzatrici corate in scena, la coreografia di Panzetti Ticconi, e coreografia parte proprio dai gesti militari, e poi continueremo. Certo, no, il programma. Certo, il programma è molto fitto. Palcoscenici dei comuni dell'Unione Reno Galliera. Esatto, sì, come sempre Agorà ha la caratteristica di essere una stagione teatrale diffusa, coinvolge gli 8 comuni dell'Unione Reno Galliera, che sono tutta l'area nord dell'area metropolitana di Bologna, spazi teatrali e spazi anche non teatrali. Quindi avremo Silvia Gribaudi con A Corpo Libero nelle strade di Castelmaggiore, saremo con uno spettacolo, un omaggio a Franco Battiato, alla Music Station di Trebbo di Reno, che sta aprendo proprio in questi giorni uno spazio per la musica che io ho visto un po' in anteprima, ed è uno spazio, sembra molto molto molto bello. E poi avremo anche un progetto speciale che faremo qui in ottobre, che toccherà le sale dei consigli comunali, ed è un progetto che si chiama Gaza XR, The Phoenix of Gaza, ed è un progetto abbastanza articolato, nato molti anni fa da un ricercatore di origine palestinese della Columbia University, che voleva documentare la vita a Gaza, la vita normale, la cultura, gli usi, un po' anche per tutti gli esuli che come lui non potevano tornare. Purtroppo si è trasformato in un documentario anche del post, quindi questo progetto, che doveva documentare la vita, ha documentato anche la distruzione, quindi si vedono i luoghi, la vita del mercato prima e la distruzione adesso. Quindi abbiamo pensato di ospitare questo progetto, che è appunto un progetto di realtà virtuale, per rendere onore a quei giornalisti di questo progetto che sono stati uccisi per documentare quella che doveva essere semplicemente la vita e la cultura, che è un po' anche quello che fa il teatro, quindi si cerca di documentare qualcosa, di condividerlo. E quindi questo progetto ci sarà in ottobre, è un po' uno spin-off particolare, perché appunto non è prettamente certo teatro, ma pensiamo che... Certo, con l'impegno e anche la divulgazione culturale soprattutto. Intersezioni con altri cartelloni, collaborazioni che vuoi sottolineare? Agorà sempre collabora con tante realtà del territorio, quindi siamo aperti a qualunque tipo di partecipazione, collaboriamo sempre con le AMPI, l'Istituto Scolastico, con il Keynes, che ringraziamo, ci intersechiamo con il piccolo festival della divulgazione che è nato a San Giorgio di Piano, per cui noi lo spettacolo di Agorà verrà ospitato all'interno anche anche del loro cartellone, lo spettacolo di Claudio Morici, La malattia dell'ostrica, sulle storie, le biografie degli scrittori che per creare qualcosa di bello, Morici in modo molto divertente racconta che bisogna perdere un pochino di senno e quindi ci sono le biografie di questi grandi scrittori che combinavano di ogni. E poi anche con il festival Uscire dal guscio, Educare alle differenze, anche con loro collaboriamo per quanto riguarda le tematiche di genere, in particolare con lo spettacolo che ci sarà il 15 novembre in carne di Rossella Dassu, che verrà proposto sia al pubblico che agli studenti di Castelmaggiore e che è un racconto di come i diktat dell'estetica impattino sul nostro corpo e sul nostro modo di affrontare l'invecchiamento. Bene, è un programma ricco, a me non resta che augurarvi buon compleanno e grazie per la disponibilità e per la proposta che offrite ogni anno. Grazie Alessandro. Grazie a te e agli ascoltatori per l'attenzione sempre che poni su questo progetto che è in provincia, ma no, pensiamo dia molto valore proprio a tutta l'area metropolitana.